portiamo innovazione. Il sto paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione. Portiamo innovazione. Il sto paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione. È un mondo a sé lo sbando, ci si assicura la pagnotta solamente trasformandosi in dirambo. C'è crisi dappertutto, per l'onesto il farabutto si tira a campare aggrappandosi su tutto. È così che va, e così sarà finché qualcuno non la cambia questa società. Beato chi camperà, che ad uscirne saprà. Un saluto a tutti fra che passeranno all'aldilà. Lo vedi man, non si può fare nulla, passi giornate alla ricerca del nulla. Ti aiuta solo questa merda palla, non lasciamola svanire, l'unica cosa che ci salva. Dati da fare in questo mondo senza più speranza, tira fuori il meglio dalla tua esistenza. Non rischiare l'hip hop, astinenza, fatti sentire mel, ma mettici potenza. Portiamo innovazione, il tuo paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione. Portiamo innovazione, il tuo paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione. Mi dà la forza, non mi fa andare giù il morale. Mi solleva parecchio nei giorni in cui mi sento male. Fa vedere tutto molto più chiaro, addolcisce ogni discorso e non lo rende amaro. A volte non mi sembra vero, sparo beat nelle mie orecchie, pare tutto molto più leggero. Amo sta musica, ne vado fiero. Non è la moda per l'estate, è tutto ciò che credo sia rimasto intero. Io questa roba la considero la mia medicina. È un antidolorifico migliore della morfina. La spina che mi tiene vivo in questo mondo troppo grigio, dove l'hip hop è il pregio e perciò lo chiamo egregio. Portiamo innovazione, il tuo paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione. Portiamo innovazione, il tuo paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione. Portiamo innovazione, il tuo paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione. Portiamo innovazione, il tuo paese ormai finito nella più totale disperazione. Un punto di illuminazione per farti luce quando il cuore ti sta sotto effetto della depressione.